Then I went down into the basement where my friend, the maniac, busies himself with his electronic graffiti. Finally, his language touches me because he talks to that part of us which insists on drawing profiles on prison walls. In that moment, poetry will be made by everyone, and there will be emus in the zone. Inizia ora Music for You. Contributi elettronici, rock ed indipendenti per una nuova esperienza di suono. Music for Youth, contenitore sonoro di sperimentazione musicale strutturato per l'amplificazione elettronica. Radio Sherwood 97800, Radio Sandonà 102200, bentornati a Music for Youth, nuovo appuntamento per noi in questa settimana, e abbiamo un ospite che secondo me si farà ricordare, anzi si è fatto ricordare nel tempo, perché io sono cresciuto con lui anche se lui non lo sa, uno dei migliori selector per il nostro Veneto con noi, Strifu, ciao. Ciao ragazzi, ciao a tutte. La classica cosa, c'era un mio conoscente che una volta diceva: vorrei sposarmi ma lei non lo sa. Vabbè, non importa. Comunque. Benvenuto Strifu. Ciao, grazie. Sappi che è un onore. Grazie per l'invito. Sì, veramente. Un onore anche per me essere qui. Siamo cresciuti con te, anche se tu non lo sai, come si diceva, perché ti abbiamo ascoltato in numerose tue session, se possiamo chiamarle così, tra i più disparati locali del Veneto orientale e ben oltre, perché dopo ci spiegherai anche un po' dove hai suonato. Molti possono andare, chi vuole può andare a leggersi la tua biography sul MySpace. Insomma, di storia a raccontare ce n'è, tutto sommato, no? Sono circa 15 anni che seleziono, mi piace dire selezionare, non suonare. Non mi piace usare la parola suonare perché sono convinto che molti DJ suonino, però io non suono assolutamente. Io seleziono musica, vengo da un background del sound system, reg, dove si costruiva tutto quanto da soli e le canzoni venivano messe tutte dall'inizio alla fine senza tanti artifici, quindi mi piace selezionare. Sì, infatti io ho usato la parola selector perché l'avevi ben sottolineato anche nel tuo MySpace, sono andato a leggermela. È vero. Ci sarà anche un discorso sui DJ che poi possiamo affrontare se vuoi, no? Molto volentieri. Perché sei un po' critico da questo punto di vista. Sì, mi piacciono tanto, però assolutamente sono critico verso tanti DJ, verso tante cose che si sentono. Questa sera Strifu ci ha portato tre tracce, due suoi ascolti più una traccia promozionale, e per noi il pezzo degli ospiti è sacro. Sì, come sa il buon Favotto. Sì, come il Natale, queste cose. E tutte le feste comandate che a noi piacciono, e non ci andrà di traverso il panettone, ma no. Gli Air, DJ Panda J e Casino Royale, giusto? Questi sono i tre pezzi che ascolteremo nel corso di questa puntata di Music for Youth. Che invece bello, abbiamo una scaletta. Quanta meraviglia ce da parte tua. Ce l'abbiamo sempre, ma non lo diciamo mai. Andiamo invece con un pezzo nostro homemade, cioè all'interno di questo studio. Sì, senso che l'abbiamo proprio fatto io e Lele. E si comincia con gli Editors. Sì. Caro Favotto, che ritornano su queste frequenze dopo aver presentato dal loro primo album, che era The Backroom. Mm-hmm. Abbiamo portato la traccia più famosa, che era Munich. Esattamente. Loro hanno dato una spinta al loro sound con parecchi sintetizzatori, l'utilizzo dei campionamenti, sono andati un po' regredendo verso gli anni 80. Sì, e tra l'altro, e poi ne esce questa Farfallino, ossia Papillon, che praticamente precedeva il secondo album, se non sbaglio. No. Sbagli in pieno. Grazie, perché bisogna pure correggere. Ma sì, hai molta ragione. Sennò poi la gente ci insulta. Sì, è assolutamente vero. E si chiama Papillon, come dicevi tu, sì. Ed è il primo singolo per il terzo album, che è Is This Light and On This Evening. Hai ragione. Frustami, per cortesia. Fustigazioni per te, medievali. Sì, via, a inginocchio sui ceci. È uscito in settembre 2009, per cui potete trovarlo nelle migliori salumerie d'Italia. Esatto, sì. Che si chiama In Off Naco, quello che volete, esatto. O compratevelo online. Lo danno anche con l'ardo di colonnata, ve lo mettono in mezzo al panino. Cosa ne pensi degli Editors? Gli Editors non ne penso molto perché non li conosco molto bene. Mi piacerebbe vederli quest'estate, che se non sbaglio a Italia Wave a Livorno. Sì. Bravissimo. Altrimenti te li puoi beccare anche più vicini all'Heineken Jamming Festival, che mi pare sia stato un ingresso puff, buttato così dentro per riempitivo. Beh, può essere, anche se ci sono i Cypress Hill che vorrei molto vedere all'Heineken. E quindi fa due giorni. I Cypress Hill non li avevo neanche notati. Vedi, fa voto. Il lunedì siamo degli insulsi. È anche il dubbio che loro abbiano notato te. Quello non è una sicurezza certa. E compratevi quest'album degli Editors, come si diceva, per una rielaborazione della New Wave. Non so qual è, però comprate. Ci sono le tracce, si chiamano The Boxer, è una. Poi c'è Papillon e The Big Exit, che io consiglio tutto sommato. Si va con questo primo pezzo. Prego. Della settimana. Prego, Terzariol. Io vado allora. Certo. Su Radio Sandona 102.200, Radio Sherwood 97.8, Papillon degli Editors, Music for Youth. Sleep twitch. My papillon, feel love when it's shone. It kicks like a sleep twitch. Radio Sherwood 97 800, Music for Youth, anche su Radio Sandona 102.2. Bentornati con noi, ospite Strifu oggi in studio. Alvisa, hai qualche domanda? Sì, si diceva nel fuori onda esattamente che il prossimo gruppo che andiamo a sentire, che a te sembra di capire che piaccia molto, piacciono molto, che sì, sono gli Air. Questo. Ti piace anche in sottofondo, scusate la parentesi, ti ho messo Odessa dei Caribou. Ti avevo promesso che l'avrei messa, però invece... È un po' ruffiano, ragazzo. No, vabbè, sono attento ai dettagli. Molto bello l'album, se non sbaglio, Swim. Sì, bravissimo. E lo vedrò fra 2 settimane a Barcellona, al Sonar, un live suo, e saranno presenti appunto anche gli Air, un gruppo che mi piace molto, li ho già visti diverse volte in concerto. Ricordo una volta a Nonantola, a Modena. Modena. Una delle prime volte li vedevo. E a fine concerto mi ha salvato la vita Trobugo, dandomi un passaggio fino alla stazione del treno, perché non so se sapete, Nonantola è molto, molto distante da qualsiasi forma di vita. Sì. È un'area 51. Però strano, un posto molto bello dove hanno sempre fatto bei concerti, ho visto sempre belle... Uno dei maggiori club, insomma, lì. Sì, però ci si va portando il passaporto. Esatto. No, scusa Alvise se ti ho interrotto. No, avevi si parlava appunto di Sonar nel fuori onda e ci dicevi che sei ormai un veterano, un aficionado, sì, parte dell'arredamento ormai, sì del bar, diciamo. È il quarto anno questo a cui andrò. Festival mi piace molto, ho girato molti festival in Europa, è quello a cui sono più legato, mi piace molto la parte giornaliera che si svolge in un museo d'arte moderna e si può ascoltare musica, si può ballare, mentre si può anche guardare tutte le opere che ci sono, una cosa abbastanza difficile da fare in Italia, anche se recentemente il Guggenheim ha fatto i lunedì. Sì, il lunedì Spritz. Sono andato lunedì scorso, carina la cosa, non ha niente a che vedere secondo me con il Sonar. Comunque è meglio che siano fatte, meglio che cose. ci siano. Sì. Ma e nella tua esperienza quadriennale hai trovato un qualche gruppo che ti ha, o qualche gruppo, o qualche DJ, o qualcuno che ti abbia poi influenzato nei tuoi ascolti musicali piuttosto che nelle tue selezioni, che ti ricordi? Beh, sicuramente Buzzcliff 3 anni fa mi ha fatto scoprire il dubstep. Non lo conoscevo benissimo come genere, però mi ha fatto innamorare subito, perché oltre a selezionare i dischi suonava vari strumenti di cui non ricordo benissimo il nome, quello che si gratta così, la grattugia per il crin, formaggio. Sì aveva una forma di grana, hai capito, e si è inventato uno strumento, quello, o strumenti più classici, tromba, trombone, che uniti nel DJ set con un basso molto potente, è veramente un sound che mi ha influenzato moltissimo negli ascolti. Dubstep, che tra l'altro dovevamo iniziare a mettere perché non so se è tanto spendibile. No. Ci sono delle cose tipo l'ultimo album di Scuba, che non ricordo bene il nome, che è qualcosa di meraviglioso, veramente. Bon, facciamo che mi lasci la classica listina da supermercato e io e il Visa andiamo a fare la spesa. Sì, perché io una scoperta simile è stata la il mio incontro con Code 9, che praticamente io l'altro 2 volte al Sonar, esatto, sì, che quest'uomo ha la sfortuna di nascere a Glasgow, io ho la sfortuna di andarci una e sera. Noi abbiamo la fortuna di averti a Glasgow, sì, infatti, cioè, che mi tenete lontano quel tanto che basta, e una sera vado in questo locale e dico senti che cose, cioè, e sono rimasto assolutamente basito, meraviglioso. E gli hai detto Amour, Imagination, Rêve, ossia Air, perché è l'acronimo di queste 3 parole. Ma non l'avrebbe capito molto probabilmente. Perché era sotto di qualsiasi cosa. Ma secondo me no, là piace più la patata fritta con dell'aceto e del formaggio grattato, che è un piatto tipico. E diglielo in francese, tra l'altro. Sì. No, era per instradare di nuovo verso gli Air, perché è il primo pezzo che porta Strifu oggi in programma da noi. Un ottimo album, Moon Safari del 1998, noi l'abbiamo amato, e sì, ha fatto la storia per la Easytronica, potrei dire. Assolutamente, forse si avvicina Love 2, quello appena uscito, secondo me si avvicina in 4-5 brani, non è un capolavoro come Moon Safari, però è molto bello anche l'ultimo album. Andiamo ad ascoltarci di Al. Sì. Vuoi presentarli tu? Che una ogni tanto lo faccio io, ogni tanto lo fai tu. Certamente. Si è anche interrotta la canzone che c'è in sottofondo, per quindi, cui meglio di quindi così. Quindi è il mio momento a cappella. Air, All I Need, Music for Youth, Radio Sherwood, Radio Sandona. This way, all I need is a place to find, and there I'll celebrate. Questa era All I Need degli Air, dal loro album Masterpiece Musafari nel 1998. Bentornati su Music for You for Radio Sherwood 97.8, Radio Sandona 102.2, e Alvise è qui pronto per i nostri contatti settimanali. Play, Favotto, play. Volete liberare dei nani da giardino? Ci chiamate allo 0421 560993. Vi forniremo delle copie cementificate di tre nani. Lele qui presente fa Eolo, io faccio Pisolo e Strifu, il nostro ospite, può fare Dotto. Va benissimo. Dotto piace. Bene, quindi, volete, li volete con o senza cappello? Perché se volete il cappello ci serve anche un fax allo 0421 560994 o una mail a radio@radiosandona.it. Poi siete liberissimi di liberarli in grava o, se siete a Padova, liberateli dalle parti dell'Euganeo, che mi dicono ci sia tanto verde solo all'interno di un qualcosa di circolare. Altrimenti portateli allo Sherwood Festival, visto che è esatto, c'è un colle lì, metteteli là. Mollateli lì, noi poi veniamo a raccattarli e li portiamo nel posto dove non ve lo diciamo. Credo che i nani vadano nel secco poi, no? Veramente. Dovevamo dare l'utopia che li portavamo in una foresta con l'arcobaleno. Ma no, cioè, è l'ospite che li libera, Terzariol. Ah. Vabbè, non importa. Vabbè, non ho capito nulla, come al solito, della vita e di tutto. Però puoi rimediare dicendo ai nostri ascoltatori qual è il nostro blog. Il nostro blog è music4youth.wordpress.com, dove trovate la puntata in podcast, questa, con ospite Strifu, e tutte le altre registrate precedentemente, Bluetooth Scan, Gain on Top, Twins FM. E altrimenti potete abbonarvi al nostro gruppo Facebook Music for Youth, YOUTH per i non anglofoni, e postare tutte le foto di nani da giardino che volete. Esatto, anche voi con i nani da giardino in vari posti del mondo. E questa è copiata dal meraviglioso mondo di Amélie, però vabbè. Esatto. Amélie non se la prende. Non dimenticate che c'è anche una pagina su Sherwood, e lì potete abbonarvi ai feed RSS o scaricare il podcast anche da quella puntata e trovare informazioni riguardo a questi due brutti ceffi, più un terzo ceffo che è Strifu e che innalza il valore estetico, sì, e più che altro della trasmissione in, sì, generale. Diciamo che Strifu questa sera è un po' il geranio tra le piante grasse. Noi siamo, cioè, l'erba infestante, esatto, quella, sì, da smantellare sempre e comunque. La gramigna. Quella che dà fastidio, quella che cresce in mezzo al cemento delle strade. E che non la togli mai, hai capito? No, perché lei ricresce, noi siamo sempre lì. Come fai, ci passi sopra col tagliere? No, mi dispiace. Chissà se ne andranno all'universo conosciuto gli XX, che già sono passati su queste frequenze. No, ma poveri cari, a noi dispiacerebbe. Povere bestie, sì, esatto. Direbbe qualcuno. Direbbe Aristotele. Allora, a Platone, esatto. Povere bestie. Come si diceva, questi XX li riproponiamo qui su Music for Youth, perché hanno fatto tempo a buttare fuori qualche singolo nuovo. Ci eravamo ascoltati Crystallized in un passato remoto, come avrebbe cantato De Gregori, citazione colta. O come anche un tempo dei verbi italiani. E come si diceva, ha buttato fuori qualche singoletto, VCR e Islands, che è quello che presentiamo questa sera. Perché non VCR? Perché è più lento, insomma. Sì. La gente che ci ascolta in macchina può anche non sfrantarsi contro dei platani. Esatto. Con uno sottofondo triste. In realtà a noi piacciono abbastanza, perché c'è questo connubio di due voci, in sostanza, una voce maschile e una voce femminile, che è un po' quello che contraddistingue il cantato. Tra l'altro, noi ormai, io e te, siamo per i 26-29 anni. Strifu ha salutato a sua volta, presumo, perché non mi da sembra molto. vado per i 40 ormai, ragazzi. Vabbè, potevi anche fare la finta da pomi e dire 30 e rotti, dai, voce giovanile. Invece sensualità. Questi ne hanno 18-19, hanno già sfondato nelle chart di Albione, si avviano anche negli Stati Uniti per un tour. A loro le migliori fortune, a noi questo studio. Cosa devo dirti? Sì, pensa, io a 18-19 anni sarò stato a scuola che premevo per prendermi un Kinder Bueno alle macchinette. Io presumo avrei avuto ancora le rotelline sulla bicicletta, cioè andavo in giro con 4. Che momenti di tristezza. 18 anni, beh dai, alla fine non è neanche... Ma guarda che alla fine adesso ci riesco. Vabbè, bando alle ciance? Sì, prego. Allora, XX, Highland, Music for Youth. Radio Sandonà 102-200, Radio Sherwood 97-8, bentornati su Music for Youth. Ospite questa sera con noi Strifu, che ci ha portato il primo pezzo, ed è un momento topico per questa trasmissione, perché è la prima volta che portiamo un pezzo italiano, ce l'ha portato l'ospite. Pensati te che cosa ci deve smuovere per fare cose del genere, Favotto. Sì, non stavo ascoltando, però sì, hai ragione secondo me. Tu dammi sempre ragione. Ma guarda, dare ragione, io sono una pecora in queste cose, però no, è assolutamente vero, è la prima volta che abbiamo un pezzo italiano. E chi abbiamo? E chi abbiamo, Strifu? Abbiamo un DJ milanese, DJ Panda J, che è un ragazzo che tra l'altro ha appena iniziato il tour con Roy Paci, li fa da DJ per tutto il tour. Ha aperto il concerto di Tricky a Milano. Seleziona hip hop e trip hop ormai da diversi anni. Questo pezzo si chiama Le Fasi del Caos, è una collaborazione con Rido della CDB. È un promo perché non è ancora la versione definitiva. È comunque una traccia che uscirà sull'album, credo, fra un paio di mesi. Possiamo vantarci di avere questa assolutamente traccia in anteprima. Ci inorgogliamo. Tripudio intestinale per Speriamo loro. Speriamo che vi piaccia. E rappresenta anche due generi musicali che adoro, che fanno parte di me da diverso tempo, che sono la drum and bass e il rap, l'hip hop. Tra l'altro ho letto che lui rielabora un hip hop in stile strumentale, come dicevi, cioè con uno studio sperimentale, non strumentale, cosa sto dicendo, in quel cui con delle influenze jazz funk in stile moonwalks. Sì. Sono andato un po' a informarmi, assolutamente, per cui non ne sto parlando per cultura personale, lo diciamo. Wikipedia doce. Anche altri portali. L'ho avuto la fortuna di conoscerlo a Jesolo. Una persona mi ha spiegato dicendo che tutto quello che produce, che campiona, sono tutte delle cose, delle parti suonate. Quindi non prende dei pezzi già, non ruba magari tra virgolette dei pezzi di altri produttori, DJ o dischi vecchi per fare la sua musica. È tutta homemade. Ce l'andiamo ad ascoltare, Strifu. Vai. Le Fasi del Caos, DJ Panda J, Music for Youth, Radio Sandonà 102.100, Radio Sherwood 97.8. Vuoi là. Dal primo minuto, poi si complica. Prima è una minima, ma la salita è rapida. Fase 1, gli sciocchi si confondono. Prima lo rifiutano, ma lento lo riassorbono. Tutto passa, è spento ma lo sento. Conto fino a 10, 99, 100. E giù morbido, e sotto resta sordido. Aumenta questo sporco, ma tutto sembra candido. Ancora sapido, muoversi rapido. Tutto è nel calcolo, anche lo svalvolo. Non è più giusto, se potessi amici vedrei più pepe in questo posto. Si sa, è gioco di carambola, se accappa la sponda è tutto nella logica. Comodo e comoda, stasera sono in orbita, giocano col Commodore e la partita è ostica. Giovani spiriti, ma persi gli spartiti, cercavano lo sbaglio e ci sono riusciti. Andiamo avanti, qualcosa si farà, o almeno lo si spera. La roba si sistema, sì, ma che cosa? Tutto mi preoccupa, sì, ma che cosa? Il passo resta incerto, ad ogni click del mouse. Senti il suono sotto, fai del caos. I tempi sono fatti e tutto è nel casino. Ne senti il movimento, ne guardi l'obiettivo. In fase 2 i regolari lo subiscono, lo capiscono, si assuefano e digeriscono. Ormai è svelto ed avanza passo certo. Imparate 7 note per dirigere un concerto. Si fa duro, col suono d'abusivo. Imbratta le mie strade, la casa del vicino. Perde sapore, corro fulmineo. Un microchip che mi salva dal delirio. Voi ragazzi, mi mancate adesso, che tutto è scolorito e mi sembra meno spesso. Ci vuole mira, nel gioco del tragitto. L'azione e soluzione, la presa sul grilletto. Singolo e singola, la mattina stimola. Programmano una tari per giochi di enigmistica. Simpatiche anime, ma manca spunto. Chiedo un'opinione e mi presento un sunto. A guardar bene, bisogna fare subito. Prendo fiato un attimo. We'll be right back. cose tre. I furbi che si assillano, loro lo sapevano, si abbracciano e poi tremano. Merda, il turbine in rialzo, leggo l'alfabeto e devo scrivere un romanzo. Irresistibile, l'ercia dilagato, nero fumo chimico stracontaminato. Volo solamente, con in bocca niente, l'impulso telematico che brucia prepotente. Dai fratelli, vi voglio qui al mio fianco, giochiamo con il plastico per far saltare il banco. Missilistica, l'età di balistica, super cervellone a cognizione artistica. Ottima e ottima, altra molto in macchina, progettano col Mac in una posa enfatica. Questa sì che gente a non ascolta, spari una cazzata e la ripetono più colta. Hanno finito giusto in tempo, sistemato tutto, la palla torna al centro. Music for Youth, DJ Pandajay o DJ Pandaggi, non bastonateci, non lo sappiamo ancora, resta no, in sottofondo. DJ Pandajay, non arrabbiarti per cortesia, sì, prendila con filosofia. Resti in sottofondo e speriamo che noi tu speriamo, ci giustifichi, noi dai. Speriamo di piacerti, come facciamo dicono schifo, nelle poste del cuore. Facciamo schifo e lo sappiamo, non punirci. Conosci i nostri limiti. Noi li conosciamo, conoscili anche tu. Andiamo invece alla traccia successiva, che non c'entra assolutamente nulla con quello che state anche sentendo in sottofondo, Apollo 440. Esatto. E ci sono dei video con dei cani, sì, a quanto ricordo. I cani corrono. Run dog run. E soprattutto a me questo video ai tempi ha colpito molto, perché c'erano due batteristi che suonavano sulla stessa identica cosa contemporaneamente, è e vero. io ci sono rimasto più a parte per le canottiere che avevano, che era un scandalose. Qualcosa sì, abbastanza tamarro, però cioè è un qualcosa che colpisce. La stessa poi cosa, il cane corre. La stessa cosa l'hanno fatto i Franz Ferdinand, però tutta la band sulla stessa batteria, quando sono andati a vedere a Jesolo a dicembre scorso, renditi conto, quando ne gay impressionante. Apollo 440 invece, il pubblico jesolano ringrazia, e anche gli Apollo 440, che sono tutti i membri, cantano in ogni canzone, aggiungono un gran campionamento di suoni elettrici fatti a computer, elettronici fatti a computer. Te piace? Sì, questo è crediamo il loro singolo più famoso, Stop the Rock. Sì, che si è 1900 e prendi 99, sì, 98 verso la fine degli anni 90, si prende buona parte delle TV nostrane, anche se loro sono di non te lo so dire. Per me sono statunitensi. Tu dici che sono statunitensi? Beh, dateci voi la risposta, ascoltatori, e scrivetecela. Anzi, DJ Pandajay, facci sapere, a parte il tuo nome, da dove sono gli Apollo 440. Insieme a tutti gli insulti che riceveremo via email, se mai ci ascolterai, ma penso che Strifu magari gli dice qualcosa, fa sì con la testa Strifu, per cui bene così. Che dire, andiamo con gli Apollo 440? Certamente. Certamente, bene, fa voto. Apollo 440, Radio Sandona 102.2. Stop the Rock, Music for Youth. Groovy. Come on, Apollo 440 su Radio San Donà 102-200, Radio Sherwood in parallelo 97.8, bentornati su Music for Youth, ospite Strifu questa sera con noi oggi pomeriggio, quando cavolo volete, lo dico sempre perché lo streaming è disponibile 24/7. Esatto, anche al mattino alle 7. Lo sconsigliamo vivamente, ai cereali, se non per andare al bagno. Ed è il tempo delle domande per il nostro ospite di stasera, Strifu. Allora, pronti. Faccio io che è sempre simpatia. Allora, Strifu, diciamo un uomo a tutto tondo, nel senso che è attivo in qualsiasi cosa. Nel senso, Strifu è, sappiatelo ascoltatori, quello che ha insegnato a buona parte dei giovani sandonatesi ad ascoltare band o DJ o altro che nessuno qui conosceva. Strifu fa per un periodo lunghissimo, e fa ancora se non sbaglio, una rubrica sulla stanzetta che si chiama Senti sì. come suona, sì. giusto? Sì, sì, giustissimo. E lì una volta io il mio incontro con Strifu è Senti come suona DJ Spooky, e io da lì mi sono messo a piangere, ero felicissimo. Puoi parlarci un po' di queste tue esperienze? Di DJ Spooky? O... No, parlaci del tutto il tuo passato. Allora, la stanzetta è un progetto a cui tengo molto. Sono circa 5 anni appunto che scrivo per questa rubrica che si chiama Senti come suona, è divisa essenzialmente in tre parti, ovvero ogni mese racconto di eventi che vedo. La Senti come suona, che è il resoconto di concerti o delle cose che ho appena visto, oppure Senti come suona versione Back in the Days, ovvero parlo di concerti di diversi anni fa. E poi la terza parte, che è Support Your Local, dove cerco di fare una cosa molto simile a quella che fate voi molto bene tra l'altro, ovvero intervistare e chiedere ai ragazzi della nostra zona quello che fanno, quello che sono, quello che hanno fatto, quello che vogliono fare. Poi accanto a questa attività qui sei ancora attivo musicalmente con il progetto Okuto Waza. Sì, sono dei Okuto Waza, è un progetto rap, sono i titolari del marchio, sono due ragazzi molto giovani che scrivono completamente i loro testi. Le produzioni sono affidate a DJ Bonds, a Pino 12, ma anche a diversi ragazzi conosciuti tramite i vari social network, MySpace soprattutto. Ho conosciuto un ragazzo greco che fa delle produzioni drum and bass e anche house molto molto valide ad Atene, o non lo so, anche altri ragazzi, lo stesso Panda J o Pandai di prima, o che dir si voglia. È appena uscito il loro primo CD completamente autoprodotto, si chiama Sete. Potete o mandare una mail a me, strifu@alice.it, oppure guardare il MySpace dei ragazzi, che si chiama myspace.com/okutowaza06. E anche tu, vero, hai un blog, così gli interessati possono star dietro alle tue innumerevoli attività? Sì, ne ho diversi. Quello che seguo e nel quale dico tutto quello che faccio è twitter.com/strifu75, oppure i resoconti video li potete trovare tutti su youtube.com/user/strifu27. Vedo anche uno strifu.blogspot.com. Sì, quello lì se non te lo sei dimenticato per strada. No, sì, anzi sì, me lo sono dimenticato per strada. Quel blog lì metto tutti gli scan degli articoli scritti per la stanzetta in questi 5 anni. Potete trovare tutte le vecchie puntate. Un'ottima memorabilia per andare a pescare nella storia di Strifu. Tra l'altro poi ci dicevi anche di questo, di questa contest in cui sei impegnato, riguardanti stickers, e che riguarda Haring in un certo senso. Sì, il 26 giugno a Firenze, per onorare i 20 anni della morte di Keith Haring, ci saranno ci sarà una combo, ovvero diversi artisti da tutto il mondo, artisti e non solo, anche gente autodidatta come me che si autoproduce gli stick, gli ha spediti e saranno attaccati su delle riproduzioni di opere di Keith Haring. E tu quale porti, per sapere? Puoi dircelo? No, con i miei adesivi faccio una composizione di Keith Haring, ricalco praticamente un disegno di Keith Haring mettendo sopra i miei adesivi. Oh, che bellezza. Beh, cose per favore. Io e te possiamo andare invece in spiaggia con sì, la col secchiello e cercare di fare dei castelli con le pinne, fucile ed occhiali, quando il mare è una tavola blu. E passiamo invece al Casino Royale, che il terzo pezzo che ci porta Strifu per questa puntata. Mi illumino quando dite Casino Royale, sono il mio gruppo preferito. Milano 1987. Esattamente, sono 22 anni che producono musica. Io li seguo ormai mi ricordo il primo concerto, l'ho visto a Sonorian a Milano nel 1994. Un concerto bellissimo, c'era Henry Rollins nel palco grande, i Casino Royale suonavano nel palco piccolo, c'era più gente per loro che in tutta la zona. Henry Rollins ovviamente estremamente felice del sì, tutto. Estremamente sì, sì, contrariato. Molto arrabbiato. Andiamo ad ascoltarceli, Strifu. Allora, da che album è preso? Da uno Royale loro Sound ultimi? È preso da l'ultima loro produzione, che è Casino Royale va bene. Reggae Session. Te lo dico subito, grande. Il CD è qui davanti, Royale Rockers, The Reggae Session. Grande. Bene così, andiamo Alvise. Prego. Su Radio Sandona 102.2 e Radio Sherwood, molto molto importante. Siamo ormai svezzati alla terza settimana di programmazione, certo, e ci tengono ancora. Sì, infatti no, noi non vi capiamo, sappiatelo. Royale Sound, play per noi. Il primo palco è poco adrenalino che agli scuri. Are you ready? Se dai you ready to roll. Se sono pronto, scommetto quello che ho. Se dai you ready? Se dai you ready to roll. Mi gioco tutto, scommetto quello che ho. Che ti sceglie, rosso, nero, gioco, sono sul tappeto verde. Uno vince l'altro e prende il posto di quell'uno. Da un punto di mani sono scomparsi uno ad uno. One by one. One by one. The art that they call. Vivendo ciò che sarà, e della sorte che ci afferra, prendendo quello che dà, ti dà, ed è la sorte che si sfida cercando un suono che sei, che vuoi, ed è la sorte che ti sfida tu gioca le carte che hai. Bentornati in Music for Youth, RSD 102.2, Radio Sherwood 97.8, ospite con noi Strifu. Si parlava a inizio di puntata e siamo un po' stretti di tempi, per cui ti chiedo se puoi una risposta abbastanza stringata, però ci tenevi tu al tema e ci tenevo io, visto che mi sono letto l'argomento sul tuo MySpace. Eri un po' critico nei confronti dei DJ quando ti ho letto, per cui presumo tu lo sia tuttora, no? Sì, diciamo la verità. Per alcune, per come si spendono, o per come usano spendere la musica, no? Sì, mi sembra troppo inflazionato l'arte del DJ, perché è un'arte, la reputo un'arte, e secondo me ci sono tanti DJ molto bravi, molto validi, che suonano, che sono meritevoli di questo. Per essere breve, mi sembra tutto abbastanza omogeneo, ovvero in funzione di accontentare il pubblico e molte volte in funzione di droghe o altro, non solo della musica. Per me la cosa più importante è la musica, dovrebbe ruotare tutto esclusivamente attorno a quello. Il resto è un contorno, però non deve essere la cosa principale. Io vedevo che sottolineavi soprattutto l'appiattimento, no? Per sì. quanto riguarda le selezioni. Sì. Non so se per nei confronti del pubblico, perché non c'è una creatività forse alla base, perché è un copiare continuo, mentre non c'è una selezione originale. Non lo so, ne ho parlato spesso con tanti ragazzi, tanti DJ. Secondo me l'originalità e la voglia di fare c'è, però mi sembra che siano tutti abbastanza, tutti i ragazzi che conosco, che parlo, un po' disillusi del... no, disillusi, compiacenti nel cercare di accontentare sia la gente che hai davanti e soprattutto il gestore del locale. E quando inizi a accontentare il gestore del locale, per me non è proprio il massimo, perché più che altro sono dei businessmen, non sono delle persone, degli operai della musica. E parlando di DJ, c'è qualcosa che ti senti di consigliare ai nostri ascoltatori? Esatto. Al momento, oltre qualcosa che ti piaccia molto, oltre al listino della spesa che ci devi lasciare, se vuoi fare un nome o due? Beh, DJ Crash. Sì. Beh, e qui ci inchiniamo. DJ Shadow, il citato prima DJ Spooky. Ci sono molti DJ, non lo so, nella nostra zona ti dico DJ Bones, un ragazzo che quando lo vedo screcciare non capisco più niente, veramente mi fa provare molte emozioni. Sempre nella nostra zona DJ Tech, il DJ di Medrano. Macy Gray si farà remixare da uno di questi, secondo te? Ma secondo me sì. Macy Gray tra l'altro collabora con Fatboy Slim, insomma. Infatti non è che è nuova questo tipo il di, pezzo che, di collaborazione. Il pezzo che volevo scegliere era o Do Something, che è quello che andremo ad ascoltare, o la collaborazione con Fatboy Slim per il 2000, non mi ricordo più che anno fosse. Era un gran pezzo, si chiamava Demons, con un video altrettanto bello. Noi ve lo consigliamo in parallelo a questo ascolto che va in chiusura di puntata di Music for Youth di questa settimana. Macy Gray, accenni urban, un po' trip hop, soul jazz. Lei sì, non, poi cambia molto nel sì, tempo. Cambia molto, si è buttata molto via. Secondo me si è data un po' una musica molto commerciale. Nell'umido, diciamo, il giovedì. Il giovedì. Passa l'Asia a ritirarla. Esatto. No, a parte gli scherzi, secondo me è cambiata molto nelle sonorità e nel tempo. Infatti noi andiamo a proporre il suo primo singolo. Sì, che... noi siamo un po' medioevali in questa scelta, nel senso che questa Do Something è il primo, proprio primo singolo che sì, Macy Gray ha era pubblicato. Era estratto dall'album Oh Now Life Is. E molto probabilmente qua l'influenza trip hop secondo me è anche più presente. Poi si vira abbastanza l'attività di Messi. E io me la dimentico. Sì, ce la mettiamo via proprio... come si suol dire, come le migliori storie d'amore. Ce sì, la mettiamo via nel tempo. Esatto, o anche come le monetine in tasca. A decantare come il vino migliore. Noi ringraziamo Strifu, grazie davvero perché... tantissimo per portare un po' di saggezza in questa valle di ignoranza, no, che è Music for Youth. Non sembra, però davvero lui ci ha accudito in molte serate della nostra giovinezza e ci ha fatto conoscere molti artisti, perché sembra di no, però lui ha anche suonato in molti locali. Vuoi fare tu un listino? Io mi ricordo il Vapore. È uno dei più bei locali dove ho messo i dischi, e sicuramente il Vapore, proprio grazie al citato prima DJ Tech. Ho messo i dischi a Le Giraffe, che è un atelier a Bologna. Mi ricordo anche un Terrazza Mare, giusto per andare... Ho fatto 2 anni al Terrazza Mare, resident, tutti i mercoledì sera, dove proponevo un rap, hip hop. C'era un ottimo locale che si chiamava Guernica, qui a San Donà. Bei ricordi, bellissimi ricordi. Con ottime serate musicali, anche mi ricordo di te lì. Con grandi organizzatori, l'Alto Slang, che adesso sono in Messico, che hanno aperto un locale. Se la vivono meglio di noi, che siamo qui all'umido di questo studio, no? Infatti. Un pronostico per i mondiali? Ma cosa vuol dire? Che domanda è? Ci sembrano domande. Posso chiederglielo? Ah sì, perché noi dobbiamo andare a scommettere. Argentina. Argentina? A mano in cuore. Secondo me la fregatura è il CT, non i giocatori. Può essere, infatti può essere. Anche io... è un gran giocatore, è stato un gran giocatore, però... Non so se il principe Milito se lo portano via, sai. Per me è il mio preferito, sai che io... Sì. Tra lui e Suazo. Il Fresh Prince. Perché un giorno, ascoltatori, vi riveleremo la nostra seconda vita calcistica. Sì, e potremmo anche fare una formazia. Vi annoierà tantissimo. La top 11 di Music for Youth, una bella formazia da schierare per i peggiori fantacalcio esatto, del Veneto. Qualcosa di ingestibile. Ancora grazie a Strifu, speriamo di averti qui magari per la prossima stagione, quando l'autunno sarà alle porte, le foglie cadranno agli alberelli, con molto piacere verrai tu a scaldarci con qualche nuova sonorità che avrai scoperto nel frattempo. Io ringrazio Al, ringrazio Nele e ringrazio Strifu Sherwood, tantissimo, che ci ospita ormai a 3 settimane. Speriamo di piacervi tutto sommato, esatto, non di presenza ma almeno di voce, anche perché di presenza scordateci, fate solo che bene sì, e farete solo che bene. Cioè, immaginatevi delle persone con dei sacchetti, con dei sacchetti del pane in testa, esatto, i buchi per gli occhi, almeno sai di non prendere un pilone della luce. Cioè, insomma, Al, e è stato bello anche per me. Noi cediamo il passo alla musica. TVB, TV un K da B, e questa è Macy Gray. Do Something su Music for Youth. Bye. Got a living ground. just a dream.